Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Quando è l'ultima volta che ho detto se ci saremmo occupati di cronaca economica finanziaria o di cronaca giudiziaria? Ieri e anche venerdì. Beh, continuiamo purtroppo, nel senso che, come ampiamente molti di voi sanno, ho nella notte è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Busto Arsizio il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi, che è in carcere, mentre ai domiciliari è andato l'amministratore delegato di Augusta Western, Bruno Spagnolini. L'accusa è di corruzione internazionale in relazione a una vicenda già emersa, su cui già avanzavano le indagini, ossia la vendita 2 anni fa di 12 elicotteri Augusta Western al governo indiano. L'ipotesi di reato è che in quella vendita, dal valore di 556 milioni di euro, 51 milioni di euro, quindi il 10%, sarebbero serviti a pagare tangenti per assicurarsi la commessa. Questo non è però il motivo degli arresti, l'inchiesta era già in corso, il motivo degli arresti è il pericolo di inquinamento delle prove, e questo lo chiarisce, ne parleremo più avanti, molto bene il magistrato, ossia le pressioni continue effettuate fino all'ultimo da Orsi. Questa è l'accusa. Tra l'altro fu la Procura di Napoli a iniziare l'indagine nell'aprile 2012 dopo le dichiarazioni rese dall'ex responsabile delle relazioni esterne di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, che ai magistrati ha parlato appunto di una tangente pagata da una società controllata dal gruppo per assicurarsi commesse all'estero. E secondo quanto sostenne allora Borgogni, dal contratto per la vendita di elicotteri all'India sarebbe stata ricavata anche una tangente da 10 milioni di euro che sarebbe stata girata alla Lega e a Comunione e Liberazione, ma soprattutto alla Lega, per favorire la nomina di Orsi ad amministratore delegato di Finmeccanica. Tra l'altro la vicenda va avanti perché dopo una perquisizione a Lugano negli uffici della società di Guido Aschke, che era il consulente esperto in affari internazionali che avrebbe mediato per la commessa in India, a giugno la Procura di Napoli ha disposto la perquisizione della casa romana di Ettore Gotti Tedeschi, che fino a pochi giorni prima era presidente dello IOR, e poi lo hanno ascoltato in quanto persona informata dai fatti. La vicenda poi prende un'altra piega. Ascolteremo anche il legale, l'avvocato di Orsi. Segretario della Lega Nord Roberto Maroni ha detto che il nome di Orsi ai vertici di Finmeccanica fu indicato dal Consiglio dei Ministri e non dalla Lega, e ha detto che sulla Lega vi sono solo insinuazioni, non c'entra nulla, e poi ha aggiunto: stiamo ammazzando industrie prestigiose. Lì di mezzo nelle indagini, ma poi ne parleremo, c'è anche la pressione fatta perché venissero trasferite in provincia di Varese alcune attività del gruppo Finmeccanica per, sempre secondo i PM, accontentare la Lega. Ma al di là dell'inchiesta, insomma, quello che balza agli occhi, vedo che già molti ascoltatori sia su Facebook, sulla pagina di Focus Economia, che al 349-238-6666, è la situazione, diciamo, critica, contornata da continue inchiesta della magistratura che sta coinvolgendo alcuni gruppi enormi di questo paese. Penso a Eni, con il fatto che sia stato indagato anche il numero uno Paolo Scaroni per la vicenda delle tangenti pagate a Sonatrach e quindi in Algeria. Penso al gruppo Monte dei Paschi, sono cose molto molto diverse. Nel caso del Monte dei Paschi c'è una cattiva, diciamo, se non fraudolenta gestione della banca. Nel caso Eni è completamente diverso, Scaroni si è dichiarato completamente estraneo alla vicenda, nel caso Finmeccanica addirittura siamo arrivati agli arresti. Certo, insomma, stiamo assistendo a inchieste che vanno, nel caso, diciamo, di Finmeccanica e Eni, a toccare i due gruppi più internazionalizzati di questo paese, più presenti sui mercati. Quindi, al di là di quella che sarà l'inchiesta della magistratura, è bene far notare la delicatezza di queste inchieste, perché si parla di titoli non solo quotati, ma anche e soprattutto di gruppi che sono leader e operano nei mercati internazionali. So già l'obiezione che alcuni di voi avanzano, ma quando devi vincere queste gare in certi paesi, che sia la Nigeria, che sia l'Algeria, che sia l'India, è prassi di tutti quelli che concorrono, che siano i francesi, gli americani, gli inglesi, gli italiani, pagare tangenti. Se non lo fai, non perdi la gara, e quindi se un gruppo vuole vincere la gara in certi paesi deve farlo. È un'obiezione che, per non essere proprio mezze vergini, ha un suo fondamento dal punto di vista, diciamo così, contrattuale. È chiaro che se tu fai una gara in un paese in cui tutti gli altri offrono una percentuale maggiorata, tu la vai a perdere. Però è un'obiezione che non si può sostenere da un punto di vista formale, perché vorrebbe dire: allora facciamo così, diciamo che le tangenti vanno pagate all'estero, poi stabilire quant'è la quota che vada pagata. E in secondo luogo, attenzione, perché nell'ipotesi accusatoria non c'è solo, in questo caso, un'ipotesi tangente per oliare, per riuscire a vincere un contratto, ma anche per ricavarne un'extra fatturazione che poi viene girata ai partiti. Quindi bisogna sempre stare attenti, intanto da un punto di vista di principio, dire che le tangenti si devono pagare per vincere certi contratti sarà anche vero nella pratica, ma non può essere sostenuto, diciamo, da un punto di vista formale. Dall'altro, attenzione, che spesso vediamo che non sempre ci si limita a pagare il 5 o il 7% come fanno gli altri concorrenti. Esce qualcosa, come direbbero a Bari, anche per altre persone, per gli amministratori. Cioè, in questo bisogna stare attenti, perché spesso abbiamo visto nel passato non solo l'utilizzo di tangenti per vincere una gara, ma per intascarsi parte di questi soldi. E nella vicenda Monte dei Paschi, per esempio, dove non ci sono tangenti ma ci sono consulenze che ne hanno tutto l'aspetto, questi soldi non sono serviti solo a concludere una buona operazione. Comunque, come va il titolo in borsa? Dopo aver praticamente avuto estrema difficoltà a fare prezzo, tanto era basso il titolo, adesso perde tra virgolette solo il 7,22% Finmeccanica, il 3,12% Ansaldo STS, che è controllata dal gruppo. Poi c'è Pirelli che va male, meno 2,80%, Telecom Italia meno 1,90%, Saipem meno 1,40%, Monte dei Paschi meno 1%. Chi va bene? La Popolare Milano più 6,90%, Popolare Emilia Romagna più 2,40%, Intesa San Paolo più 2,30%, Mediolanum un più 2%, Salvatore Ferragamo più 2%, ST Microelectronics più 1,80%, Unicredit più 1,60%, Banco Popolare più 1,5%, Ubibanca e Snam più 1,30%, Enel e anche Enel Green Power più 1,20%. Euro a quota 1,3458. Ci occuperemo di euro perché, come già anticipato ieri, è di nuovo scontro, per quanto diplomatico, tra Francia e Germania sul valore dell'euro. Se ne è parlato anche nel vertice Ecofin, e ancora il braccio di ferro è molto teso, nel senso che Hollande sostiene che l'euro è troppo forte e rischia di annullare gli sforzi che stanno facendo i paesi dell'area euro per aumentare la competitività. La Germania dice no, l'euro va bene così, non è troppo forte. Grazie, per i tedeschi rispetto al marco sarà anche non troppo forte. Un po' di silenzio da parte dell'Italia, che invece a mio avviso avrebbe tutto l'interesse ad appoggiare la posizione francese, essendo noi grandi esportatori, i secondi dopo la Germania, ma non avendo un sistema industriale come quello tedesco, fatto di grandi imprese, di reti lunghe, di tanta delocalizzazione, subiamo di più per il nostro sistema produttivo quello che è l'euro, a mio avviso eccessivamente forte, visto che siamo a quota 1,34. Anche di questo, dicevo, parleremo anche del Banco di Desio, perché è una banca più piccola, però insomma la Consob Elvetica ha aperto un'inchiesta per riciclaggio di denaro, e vari nomi che sono girati di conti correnti anche legati alla criminalità. Torneremo a sentire l'amministratore delegato Tommaso Cartone. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi appunto la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Vedo sì anche messaggi sull'euro, ne parleremo tra poco, anche perché il presidente della Bundesbank Hans Widmann ha detto a Friburgo: l'euro non è sopravvalutato, ma e le discussioni sull'argomento sono un diversivo che distrae dai veri problemi. I tedeschi sono convinti infatti che una moneta forte sia un modo per costringere le imprese a diventare più competitive. Io vorrei sapere una cosa però, visto che l'America continua a svalutare il dollaro e lo fa anche il Giappone, cosa vuol dire secondo i tedeschi? Che gli americani non vogliono imprese competitive? Che i giapponesi non vogliono imprese competitive? No, perché sembra che tutta la verità stia come sempre a Berlino. No, evidentemente in una fase di difficoltà ci sono paesi come gli Stati Uniti e Giappone che usano il cambio per aiutare le loro imprese, ci sono aree geografiche come quella dell'euro che ritengono che la moneta forte, perché non si può dire che l'euro 1,34 sia debole, per favore, invece sia una salutare doccia fredda, una selezione naturale per le imprese più competitive. Io quando sento parlare di selezione naturale da un tedesco, così, sempre un po' i brividi, vabbè, anche se parliamo di imprese. Avete ragione, non ho dato l'indice di Piazza Affari più 0,66%, mentre Parigi guadagna lo 0,90%, Francoforte lo 0,20%, Londra lo 0,70%. Sull'euro però Mario Draghi oggi ha detto, insomma lo dice lui, l'euro si è apprezzato molto, quindi contestando, sconfessando il presidente della Bundesbank, che però è anche segno di un ritorno di fiducia in Europa. Adesso però vogliamo verificare se l'apprezzamento dell'euro può avere un impatto sull'inflazione, cioè abbassare troppi prezzi. Draghi usa questa leva, non può dire che l'euro rischia di non rendere competitive le nostre imprese, però può dire che se l'euro è troppo forte e l'inflazione va troppo giù, la Banca Centrale Europea ha l'obbligo, ha il mandato di mantenere un'inflazione stabile, non può nemmeno avere un'inflazione troppo bassa, quindi il rischio di deflazione. E Draghi però anche ha detto è esagerato parlare di guerra di valute, i commenti di alcune persone in tema di tassi di cambio sono inopportuni o comunque infruttuosi. E poi passiamo all'Italia. Oggi tassi in aumento per i bot a un anno. Il Tesoro ha collocato 8 miliardi e mezzo di bot che scadranno il giorno di San Valentino dell'anno prossimo, il 14 febbraio 2014. Il rendimento è aumentato dallo 0,20% all'1,09%. Buona comunque la richiesta, pari a 11 miliardi e 7. Sull'aumento dello spread, oggi leggermente in calo, il ministro dell'economia uscente Vittorio Grilli ha detto che i mercati sono stati relativamente stabili e non è una sorpresa che avvicinandosi al momento principale ci possa essere qualche volatilità. E invece oggi duro attacco di Mario Monti all'ex ministro Tremonti, quindi Giulio Tremonti, ascoltiamolo perché insomma obiettivamente insomma volano gli stracci anche tra la plomb di Monti e il distacco di Tremonti. Posso dire che sono sorpreso che diate mostra di attribuire credibilità in queste materie a Giulio Tremonti. Avete seguito ciò che ha fatto da ultimo quando era ministro e i valzer e le rumbe di dichiarazioni che ha emesso in queste settimane. Permettetemi di non commentare. E meno male che non ha commentato. Diciamo che se questo non è un commento. Comunque, altri dati riguardano oggi il gettito dell'IMU. 23,7 miliardi, 4 miliardi dalla prima casa. Lo ha detto oggi il sottosegretario dell'economia Vieri Ceriani. 1 miliardo e 2 di incasso in più rispetto alle previsioni. Il versamento medio è stato di 918 euro. Di cui in media 225 euro per la prima casa. E oltre un quarto, cioè oltre il 25% del gettito IMU, deriva da 5 grandi città: Roma, Milano, Torino, Genova e Napoli. Dalle imprese sono arrivati circa 6 miliardi e 300 milioni di IMU, con un importo in medio al versamento pari a 9.313 euro. Nessuna notizia invece dal Consiglio di Amministrazione della Rizzoli Corriere della Sera, che ieri ha annunciato un piano lacrime e sangue. ahimè, temo che non sia l'unico nel mondo dell'editoria. 800 esuberi, 640 in Italia, i restanti in Spagna. Vengono messi in vendita 10 periodici. La sede storica del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport in via Solferino viene trasferita in via Rizzoli, più periferica, a Milano. E tra l'altro c'è attesa per un aumento di capitale che dovrebbe essere nell'ordine dei 400 milioni di euro. E dura la nota oggi sul giornale del CDR, del Comitato di Redazione dei Giornalisti del Corriere della Sera. Questo perché il gruppo, che ha un giro d'affari di 1,6 miliardi, dovrebbe chiudere l'anno con perdite per circa 240 milioni e debiti per 870 milioni. Va male la pubblicità, come devo dire in molti media. Dovrebbero, gli introiti pubblicitari dovrebbero fare meno 12% in Italia, meno 17% in Spagna, dove è molto presente il gruppo Rizzoli, visto che pubblica Il Mondo, Marca, Espansión. Un'ultima notizia che riguarda il sondaggio realizzato dal Sole 24 Ore Radio Core con Assium Forex durante il congresso che c'è stato questo fine settimana degli operatori dei mercati finanziari. Beh, insomma, Radio Core ha raccolto il parere di 490 operatori, insomma, abbastanza netto il giudizio. Alla domanda se il secondo semestre 2013 segnerà la ripresa dell'economia reale, il 60% ha detto sì. Alla domanda se come chiuderà il 2013 Piazza Affari, il 51% ha detto senza variazioni, il 39% ha detto però in considerevole aumento. Per quanto riguarda il livello dei tassi di interesse, secondo il 66% degli intervistati, i tassi resteranno a questi livelli per tutto il 2013. Molti ritengono che il ridimensionamento del rendimento dei titoli di Stato continuerà anche nel 2013, quindi tassi bassi anche nel 2013 per il 63%, e secondo il 67% degli intervistati il rapporto euro-dollaro resterà a questo livello. Arriviamo a Finmeccanica, però vorrei tornare sulla vicenda Banco di Desio, che si è anche un po' arrabbiato, mi sono legato Tommaso Cartone, semplicemente perché nella intervista che aveva fatto la settimana scorsa con la nostra Maria Luisa Pezzali, io avevo detto, ma insomma, non si può dire, sono appena arrivato, non so quello che ha fatto la banca prima. Perché questo? Perché ci sono varie inchieste, c'è la Consob svizzera che sta indagando per riciclaggio di denaro, e i vertici della controllata svizzera del Banco di Desio sono stati radiati dal registro del commercio. La Procura di Roma sta indagando, che cosa succede? Allora, c'erano degli strani conto correnti, ha ragione Cartone, non c'entra niente lui, riguardano gli anni precedenti, però insomma pensate che vi erano Elio Caiazzo, imprenditore napoletano legato agli esponenti della banda della Magliana, e al faccendiere Ernesto Diotalevi, Bruno Sorrentino, avevano conto corrente lì, condannato in via definitiva per la sostituzione dell'incubo di stampo mafioso, è indicato come referente del clan camorrista di Dei Nuvoletta dal pentito Carmine Schiavone, che è cugino del capo di Casalesi Sandokan, tutto il Banco di Desio, che insomma. Allora, l'ipotesi su cui indaga la magistratura è la facilità di trasferire, quindi di riciclare il denaro all'estero, lo scrivono gli uomini della Guardia di Finanza, lo confermano gli analisti della Pricewaterhouse di Lugano, e negli anni il banco avrebbe svolto anche il ruolo di cassaforte per clienti italiani che hanno potuto godere delle proprie disponibilità finanziarie illecitamente prodotte sul territorio dello Stato, qui l'accusa appunto di riciclaggio anche all'interno del paese. E poi ci sono vari altri personaggi con passati diciamo non esattamente lucido, tra cui appunto Diotallevi, ex banda della Magliana, intercettato tra l'altro in una situazione tra Cagliazzo con Sorrentino. Allora, che cosa è successo? Abbiamo dato la possibilità al nuovo amministratore delegato della banca, Tommaso Cartone, di chiarire qual è la posizione attuale della banca, perché a nostro avviso, se la magistratura va avanti a indagare, qualcos'altro capiterà, lo dico adesso che siamo al 12 di febbraio, però anche quale sia il punto sulla liquidazione della controllata svizzera, quella di cui la Consob svizzera ha radiato i manager. Sentiamo Cartone. Sono fatti che risalgono a diversi anni fa. Si tratta di due indagini o procedimenti. Uno che esiste in questo momento presso il Tribunale di Roma riguarda relazioni intercorse tra il Banco Desio Lazio e la CPC, cioè la banca svizzera che adesso è in liquidazione. Su queste il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di alcuni ex dipendenti. Uno di questi dipendenti ha chiesto e ottenuto il patteggiamento, agli altri invece non lo hanno fatto perché ritengono di poter dimostrare la loro estraneità al processo. Sia il Banco Desio Lazio che la CPC di Lugano sono coinvolte ai fini della responsabilità oggettiva amministrativa a fronte della legge 231. Quindi unicamente per questo. Per porre fine comunque a questa storia, Banco Desio ha deciso di richiedere al magistrato il patteggiamento. Il magistrato naturalmente deciderà il patteggiamento, che comporterà molto verosimilmente una sanzione che peraltro è già stata appostata nei libri della banca. Oltre a quella che si è detto che riguardava Banco Desio Lazio e la CPC, c'è stata un'indagine a Monza, dalla Procura di Monza, che ha riguardato il presidente attuale più l'ex amministratore delegato e l'ex direttore generale di Banco Desio Brianza, che però si è chiusa con archiviazione. La vicenda è che è stata provocata da una denuncia di un ex dipendente con il quale c'è una causa di lavoro. C'è un'altra vicenda che vi riguarda e della quale abbiamo appreso nei giorni scorsi e viene sempre appunto chiamata in causa la controllata elvetica Credito Privato Commerciale, la CPC, e nell'ambito appunto della messa in liquidazione della CPC il presidente del Banco Desio, Agostino Giavazzi, è risultato fra i 27 dirigenti dell'istituto radiati dal registro di commercio svizzero. È corretto utilizzare la parola radiazione, dottor Cartone? Assolutamente no. Il termine radiazione in Svizzera è lo stesso significato di cancellazione. Cancellazione che accade quando gli organi non svolgono più il proprio incarico perché l'azienda è stata messa in liquidazione. Infatti la CPC è stata messa in liquidazione volontaria, deve rispettare le procedure previste dalla normativa elvetica e si sono dovuti autocancellare. È tanto vero quello che le dico, perché alcuni consiglieri svizzeri continuano tranquillamente, regolarmente la loro attività. Se fosse stata una radiazione non avrebbero potuto farlo. In bocca al lupo a Cartone, perché faccia pulizia nel Banco Desio. Vedremo come andranno le inchieste della magistratura. Temo che avremo altre notizie. Diciamo che quando si vedono certi personaggini rischia di essere la punta dell'iceberg, di un iceberg in cui la modalità operativa era quella. Ma veramente in bocca al lupo, faccia pulizia più presto, non dica più che non c'entrava, sappiamo che non c'entrava, però uno arriva e fa pulizia all'interno, chiarisca anche i conti correnti e quant'altro. Veramente in bocca al lupo, perché penso che ne avrà bisogno. Meteo, pubblicità e poi ci occupiamo di una cosa leggera come l'arresto in carcere dell'amministratore legato ai presidenti del gruppo Finmeccanica Orsi. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Facebook di Focus Economia. We'll be right back. magistratura fa il suo lavoro, sono sicuro che lo farà fino in fondo e nel modo migliore. E c'è un problema relativo alla governance di Finmeccanica in questo momento che affronteremo, e sul tema della corruzione, al di là di quella internazionale che è oggetto anche di regole internazionali, è importantissimo andare avanti nell'estirpare la corruzione anche sul piano nazionale. Con fatica il governo ha fatto approvare dal Parlamento recentemente la legge anticorruzione. Abbiamo incontrato però in quel caso da parte della destra difficoltà nell'andare oltre, e occorre andare oltre in particolare in materia di falso in bilancio, di prescrizione, di autoriciclaggio. Bisogna insomma rafforzare la disciplina della corruzione, cosa che è importante non solo moralmente e civilmente ma anche economicamente, perché una buona norma e prassi contro la corruzione agevola gli investimenti internazionali nel paese, quindi anche da questo punto di vista ne abbiamo bisogno. Così il presidente del Consiglio uscente Mario Monti sulla vicenda Finmeccanica, che ha portato in carcere ieri sera il numero uno nella notte Giuseppe Orsi, e agli arresti domiciliari l'amministratore delegato di Augusta Westland. Che ci sia un problema di governance, come dice Monti, non c'è dubbio. È anche vero che sulla legge anticorruzione il centrodestra fece un'opposizione molto dura, ha ragione in questo caso Monti, è agli atti, se qualcuno va a riprendersi i giornali di 4 mesi fa lo vede, e quindi ognuno poi si assuma le sue responsabilità. Chi invece ha dei meriti oggi, adesso vi spiegherò perché, è il collega del Sole 24 Ore, Gianni Dragoni. Gianni, buonasera. Buonasera. Grazie, ciao, anche ciao a tutti. A Raffaella Calandra, che ha seguito oggi a Busto Arsizio tutte le indagini. Buonasera anche a te, Raffaella, arriveremo fra un attimo a te e allo sviluppo delle indagini. Lo dico subito, tanto domani lo troverete sui giornali, nelle intercettazioni che sono uscite, intercettazioni negli atti dei PM tra cui compaiono le intercettazioni, ce n'è una in cui Orsi, appunto l'amministratore delegato e presidente di Finmeccanica attualmente in carcere, chiama direttamente il presidente di Confindustria Squinzi per fare pressioni, perché dice che il Sole 24 Ore da questo punto di vista è il giornale che lo sta attaccando di più. Allora, intanto un giornale non è che attacca o non attacca, un giornale fa inchieste, che sia Sole 24 Ore, che sia Corriere della Sera, che sia Repubblica. Dopodiché, visti i capi di imputazione e visto che è agli arresti, ma meno male che un giornale si mette a indagare con i mezzi che ha, e trovo obiettivamente inaccettabile la telefonata fatta al presidente Confindustria. Sappiamo che capita, ma leggere quello che si legge. Poi ce n'è invece un'altra di pressione sul Messaggero, invece lì parte un'intervista a firma del vice direttore Osvaldo De Paolini, molto più conciliante. Quindi, se mi fate una volta tanto essere autoreferenziale, un applauso al Sole 24 Ore e a Gianni Dragoni, che spesso scrive di Finmeccanica, perché evidentemente se è arrivata una pressione così forte, l'inchiesta giornalistica andava nella direzione giusta. Sapete com'è, no? Quando ci vuole, ci vuole. E grazie anche, e bravo anche Gianni Dragoni. Allora, Gianni, da dove? Poi adesso con Raffaella Calandra chiariremo perché gli arresti in carcere, che sono un'estrema razza, una misura estrema. Tu puoi anche avere domiciliari o comunque essere indagato senza essere arrestato. Da dove nasce questa inchiesta? Io ricordavo all'inizio le dichiarazioni rese alla Procura di Napoli dall'ex responsabile della relazione esterna di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, che dice: per vendere 12 elicotteri Augusta Western in India, valore della commessa mezzo miliardo di euro, 51 milioni di euro sono serviti a pagare tangenti per assicurarsi la commessa, e una parte di questi 10 milioni sarebbe andata, lo dice Borgogni, lo mette agli atti, alla Lega e a Comunione e Liberazione. Da lì come si arriva poi allo sviluppo dell'inchiesta, Gianni? Dunque, partita da lì, dalle dichiarazioni di Borgogni, quei 51 milioni di tangente, secondo quanto abbiamo potuto leggere negli atti della Procura di Napoli, che poi ha dovuto passare l'inchiesta a Busto Arsizio, che poi ha ordinato l'arresto perché Orsi aveva chiesto il trasferimento per competenza territoriale alla Cassazione. Quei 51 milioni sarebbero stati 41 milioni finiti a due intermediari, diciamo residenti in Svizzera, svizzero italiani, anch'essi è stato ordinato l'arresto, e altri 10 milioni, questa è l'ipotesi da cui sono partiti i magistrati, e sarebbero stati poi riportati nella disponibilità di Orsi 10 milioni di euro per dare tangenti, scrissero i magistrati raccogliendo le dichiarazioni di Borgogna, alla Lega Nord in maggioranza e in parte Comunione e Liberazione, per averne sostenuto poi la nomina ad amministratore delegato di Finmeccanica a maggio 2011. Questo è stato sempre smentito dalla Lega, anche da CL. Sì, anche oggi Maroni, dice. Comunque, infatti, diciamo, fa parte Lega, degli atti da cui sono partiti i magistrati. Sulla Lega, no, devo citare. In effetti, la Lega comunque ha sostenuto sempre. Vabbè, che Orsi fosse vicino alla Lega lo sapevano anche i Sassi, però da qui a dire che ci sono delle tangenti, esatto, è un'altra cosa. Citare però le dichiarazioni di Maroni, che oggi dice: sulla Lega solo insinuazioni, non c'entra nulla. Orsi fu indicato dal Consiglio dei Ministri, non dalla Lega. Vabbè, però c'era anche la Lega nel Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri, comunque, fu il Ministero dell'Economia formalmente, sì, che era poi Giulio Tremonti, cui spetta, diciamo, semmai tener conto anche delle indicazioni politiche, dopo un braccio di ferro col sottosegretario Gianni Letta, certo, come per tutte le società di cui il Tesoro è azionista di maggioranza, ad esempio come per l'ENI o l'ENEL, perché fu contestuale, aprile 2011, pubblicò la lista dei candidati in cui risultava che Guarguaglini, che era anche amministratore delegato, a quel punto avrebbe fatto solo il presidente, e Giuseppe Orsi, che veniva da Augusta Weston, sarebbe stato l'amministratore delegato. Sì, lì ci fu uno scontro che raccontammo anche proprio tra l'ex ministro Tremonti e il potentissimo sottosegretario Gianni Letta, no? Perché c'erano. Perché Guarguaglini era disposto anche a cedere una parte del suo fortissimo potere, da 9 anni era il numero uno indiscusso di Finmeccanica, aveva indicato una terna di candidati alla successione, c'era Orsi, c'era il direttore finanziario Panza e c'era l'amministratore delegato di Ansaldo Energia Giuseppe Zampini, che veniva considerato quello, diciamo, più in sintonia per fare tandem con Guarguaglini, ma vinse Orsi. Allora, da questo punto di vista, Gianni, ho la domanda più delicata di tutte per te. Allora, lasciamo stare se l'ipotesi di reato che una parte di questa tangente sia servita per pagare Lega e Comunione e Liberazione. Mettiamo che non vi sia stata questa ipotesi di reato. Allora, lo dico perché qui si avvicina anche la vicenda dell'Eni e Sonatrach sulle tangenti algerine. E cioè, dove poni il confine tra chiaramente il reato, perché qualunque tangente o mediazione illecita, come si chiama, è un reato, però, se è illecita, se è una mediazione di consulenza, poi sappiamo che ci sono anche modi per farla diventare una consulenza, vedi il caso Monte dei Paschi sui derivati della Dresdner. Però, è il fatto che, e lo sappiamo tutti, perché chi ha seguito questi gruppi sa che per vincere le gare, nei paesi in cui si vincono queste gare, penso ai paesi africani, paesi del Sud America, paesi dell'Asia, quando tu concorri con i francesi da una parte, gli americani dall'altra, e sai benissimo che loro pagano delle consulenze, vogliamo dirla così, ebbene, se tu non lo fai, spesso ti tagli fuori dalla gara stessa, perché non vieni valutato purtroppo solo sul prodotto che offri. In alcuni casi sì, con paesi molto più onesti, in altri casi, dove la corruzione è alta, non è solo questo. Allora, esiste una possibilità, secondo te, di discrimine senza essere mezze vergini, oppure, diciamo, è un ragionamento troppo pericoloso? Un ragionamento che corre su un filo, come un po' camminare su un filo, credo quasi teso nel vuoto. Bisogna essere molto bravi a rimanere in equilibrio. Naturalmente esistono dei limiti, cioè quello dell'altezza a cui pone il filo, più in alto sta e più ci si fa male cadendo. In genere i rapporti che vengono fatti sull'export, le vendite di armi, anche della Presidenza del Consiglio, mettono in evidenza rapporti al Parlamento, che sono anni, che c'è sempre come somma totale delle vendite all'estero una quota di pagamenti che vengono definiti per mediazioni. Questa parola mediazioni evoca anche delle brutte sensazioni. Sì, però voglio dire, se la mediazione la fanno anche gli altri, io perché devo perdere una commessa rispetto ai francesi di Thales o gli americani della Boeing, sapendo che loro queste mediazioni le pagano, guarda, da italiano e da gruppi. Ci arrivo. Quello che diciamo viene affermato che dipende anche la misura, qual è la misura, ad esempio in questo caso si parla di una somma vicina al 10% del valore, 51 milioni su 556 milioni, che sembra un po' alta. Diciamola tutta, per queste mediazioni di solito il prezzo internazionale del 5%. Potrebbe essere una quota più fisiologica. Esatto, tra il 3 e il 5%. Esatto, e comunque ad esempio proprio parlando di queste vicende è emerso che mi hanno detto a volte nel mondo della difesa che ad esempio in altri paesi, credo che non ci sia nessuno forse che escluda questi mezzi, questi aiutini, chiamiamoli. Cercano ad esempio i francesi di far fare il negoziato finale, quello in cui c'è anche il movimento di denaro, più a funzionari dell'amministrazione ministeriale, cioè non delle aziende. Credo comunque che se si vogliono, dove si vogliono dare o pretendere delle tangenti, la via per darle e incassarle ci sia sempre. Quello che deve funzionare bene sono i controlli. Naturalmente in casi come questo, qualora certe ipotesi di partenza venissero dimostrate o provate, è da verificare se ci fosse stata solo una mediazione pagata, una consulenza. In questo caso in India, consulenza barra mediazione, o ci siano anche dei ritorni apolitici da verificare. Va detto comunque, parlando dell'India, forse proprio perché l'India è un paese ad alto rischio di mediazione, che la legge indiana vieta ad alto rischio di mediazione, mi piace. Esatto, vieta le provvisioni, le mediazioni su appalti con il governo, perché qui il compratore era il Ministero della Difesa, elicotteri da trasporto. No, ma guarda, però io tu sai adesso so che tu ci devi lasciare, quindi ti ringrazio, che adesso vorrei passare a Raffaella Calandra, però io non voglio né legittimare le mediazioni alias tangenti e quant'altro, però è anche vero, è anche bene mettersi in testa che quando un gruppo del peso di Finmeccanico dell'ENI va in certi mercati che si chiamino Nigeria, Algeria, India, Emirati, quant'altro, cioè devi capire quello che fanno gli altri, perché è inutile far finta di niente. Vale anche per la Cina, adesso io non posso raccontare cose riservate, ma il fatto che vi sia una mediazione da pagare in Cina per quando vinci una gara lo sanno tutti gli imprenditori che lavorano con il settore pubblico cinese. Allora lì cosa fai? Fai vincere i tedeschi della Siemens o si aggiudica l'appalto l'Ansaldo e STS? Chiedo, uno può dire vogliamo essere i più puri di tutti, poi perdi le commesse. E mi rendo benissimo conto di quanto pericoloso sia il ragionamento, perché porre un limite tra la mediazione, perché non tutti, e la tangente, come dire che un po' si può rubare e un po' tanto non si può rubare, cioè è molto molto delicato. Però attenzione, non facciamo le demi-vierge, le mezze vergini, perché parliamo di gruppi che hanno bisogno di vincere commesse internazionali, cioè non è che le armi le vendi in Italia, le armi, i sistemi di difesa, gli elicotteri, gli aerei, sistemi elettronici, i radar, i sottomarini, i siluri, tutto questo fa Finmeccanica, li vendi nei paesi solo dell'area euro, né il petrolio lo vai a trovare nei paesi, cioè in Svizzera o in Scandinavia, ammesso che in Svizzera non vi siano mediazioni, non mi sembra, a leggere l'inchiesta sul Monte dei Paschi. Gianni Dragoni, grazie e complimenti. Ciao, buonasera. Raffaella Calandra resta ancora con noi, ho il traffico, poi capiamo, invece entriamo nel vivo dell'inchiesta che tu hai seguito questa mattina già dal carcere, dalla procura di Busto Arsizio. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, in effetti una soluzione, diciamo soluzione, la propone un ascoltatore, dice basterebbe mettere in bilancio consulenza, se voglio dire per vincere un appalto in un paese occorre diciamo fare come fanno gli altri concorrenti, metti in bilancio una consulenza, è trasparente, la luce del sole. In Germania infatti le aziende possono dichiarare le consulenze pagate in certi paesi e poi voglio dire tutti sappiamo che se lì è la prassi, ci sono paesi in cui, e lo dico molto serenamente, senza una sovraccommissione del 5%, chiamata tangente, chiamata consulenza, non vinci un contratto. L'importante però diciamo, e metterlo anche a bilancio come voce consulenza. Il problema qui, Raffaella Calandra, che a bilancio non c'era niente, a parte il fatto che, come dice Gianni Dragoni, il 10% per una commessa da mezzo miliardo è tanto anche per una consulenza, per una mediazione, chiamiamola così. Perché Orsi è finito in carcere e il numero uno di Augusta Weston, Bruno Spagnolini, ai domiciliari? È una misura estrema di solito, Raffaella. Sì, è una misura estrema, però forse può essere spiegata anche con le parole dello stesso Giuseppe Orsi in una intercettazione che si rifanno anche un po' al discorso che si faceva prima con Gianni Dragoni, cioè la sintesi di questo difficile equilibrio tra lecito e illecito, tra tangenti o mediazioni, in un certo senso è nelle parole dello stesso Orsi che nel novembre 2012 dice: tangenti mai, in Italia si finge di non sapere, mai tangenti, mediazioni laddove sono ammesse. Così dice Orsi. E questo porta il GIP di Busto Arsizio a parlare in realtà di una filosofia aziendale a proposito della pratica del pagamento delle tangenti e a dire che lo stesso Orsi accetta questa pratica con disincanto. Se questo è quello che scrive il GIP, veniamo alle ragioni per cui Orsi è stato portato in carcere in realtà nel pomeriggio di oggi, per inquinamento delle prove e per reiterazione del reato. Due fronti a cui il GIP dedica ampio spazio perché riguardano molti aspetti e che vengono sintetizzati da una parte nel tentativo di modificare la stessa linea operativa della procura con mediazioni e interventi di vario tipo, dall'altra, come hai già raccontato, la ricerca di una compiacenza verso gli organi di stampa, e cito parole del GIP. Le strade per influenzare la procura, che ora è guidata da Eugenio Fusco, storico PM milanese del pool dei reati economici, passano attraverso il CSM e attraverso la mediazione di due alte ex toghe milanesi, Giuseppe Grechi e Manuela Romei Passetti. In un'intercettazione si rivela la disponibilità della Passetti a lasciare il Ministero della Giustizia, e questo lascia presagire, scrive il GIP, che non avrebbe avuto un'operatività, un controllo all'interno di Finmeccanica, perché Orsi propone a questo ex magistrato di andare all'interno di Finmeccanica per andare all'interno di quegli uffici che sarebbero dovuti essere autonomi per poter controllare proprio l'operato di Orsi. Cioè il meccanismo è: metto all'interno chiariamolo, perché non è chiarissimo, metto Raffaella, all'interno degli uffici di Finmeccanica che dovrebbero controllare il mio operato delle persone, sì, però, scusami, che sono a medicina. Il punto qui mi sembra, adesso al di là della dinamica, io voglio capire perché Orsi, l'indagine è già in corso, uno finisce in carcere ai domiciliari se c'è il rischio di inquinamento delle prove. Come ho detto, inquinamento delle prove e reiterazione del reato, perché tutte queste operazioni, se l'indagine andava avanti da circa 2 anni, queste operazioni e anche i pagamenti sono andati avanti e sono contestati fino a dicembre 2012, quindi fino a 2 mesi fa. E il rischio inquinamento delle prove invece? Anche, è andato avanti per mesi, sia per, questo secondo la ricostruzione della procura, sia sul fronte di intervenire, di intervento su diciamo la procura attraverso tutte le strade della magistratura, sia sul fronte appunto di, diciamo, trovare canali diversi attraverso la compiacenza della stampa. Un altro aspetto importante è quello che riguarda i due mediatori svizzeri, Carlo Gerose e Guido Aschke, di cui fu trovata a casa della mamma una valigetta con documenti e soldi che sono stati utili sia per queste indagini, perché secondo l'accusa rappresentano il riscontro documentale a quello che già Borgogna aveva dichiarato, ma che hanno aperto anche altri fronti. E un'altra cosa importante da aggiungere rispetto al discorso che facevate prima anche sulla Lega, i partiti e CL, è che anche in questa ordinanza vengono riportate le dichiarazioni di Borgogni sulla possibilità che i soldi siano finiti alla Lega e a CL, ma questa ordinanza è solo per corruzione internazionale e false fatturazioni, il che vuol dire che resta tuttora aperto a Busto Arsizio un fascicolo di indagine che ha a che fare con i reati di riciclaggio e con quel filone di presunte tangenti finite anche alla Lega in uno scambio di favori. E non dimentichiamo che la Alenia Aermacchi fu spostata da Pomigliano al Baresotto per un favore alla Lega, e all'Alenia Aermacchi lavora anche la moglie di Marone. Allora, dopo il GR vorrei sentire invece l'avvocato di Orsi, che tu hai intervistato, e capire quali potrebbero essere i futuri sviluppi. È chiaro che non è un reato spostare un'azienda, è nella totale autonomia di un gruppo, da Pozzuoli a Varese, dove c'è la sede dell'Aermacchi. né avere altri tipi di rapporti. Qui il problema è capire come sono state pagate anche queste mediazioni. Do anche un bel po' di risposta dopo il GR a vari ascoltatori, alcuni hanno ragione, altri invece a mio avviso stanno pigliando una cantonata. Raffaella resta con noi dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook, la pagina di Focus Economia. ...18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sull'inchiesta che ha portato poi questo pomeriggio in carcere l'amministratore delegato e presidente del gruppo Finmeccanica. Allora, Giuseppe Orsi, Raffaella Calandra, diciamo prima dell'interruzione che il carcere e i domiciliari invece per l'amministratore delegato di Augusta Western sono scattati non per un'inchiesta che va avanti da 2 anni, ma come tu ricordavi per il rischio di inquinamento delle prove, reiterazione del reato. Esatto, sono queste le due esigenze cautelari indicate abbondantemente, devo dire, dalla GIP di Busto Arsizio, che si sviluppano attraverso le pressioni sui magistrati perché il PM Eugenio Fusco fosse spostato da Busto Arsizio e attraverso la ricerca di compiacenza sulla stampa, sullo sfondo di una corruzione internazionale che viene contestata fino a dicembre 2012, cioè i pagamenti che l'accusa considera tangenti sono andati avanti fino a 2 mesi fa. Anche per questo l'esigenza appunto di arrivare al carcere per Orsi e domiciliari per il presidente dell'Augusta. Sì, devo dire una cosa sul PM. Il PM attacca anche questa dichiarazione di Orsi che dice è una pratica, tu la citavi prima Raffaella, adesso non ho sotto mano la, sì, l'ordine. Orsi dice tangenti mai, mediazioni in Italia si fa finta di non sapere, queste sono le parole di un'intercettazione. Ecco, no, su di questo Orsi. Devo dire che io non so quanto ne sappia il PM, per carità, massimo rispetto, però se Orsi si riferiva al modo in cui vengono vinte le gare internazionali per commesse con concorrenti che sono multinazionali, tedesche, francesi, americane, beh, non mi piace fare né l'ipocrita né la mezza vergine, perché non esistono le mezze vergini. È così in molti casi, quando, lo ribadisco anche a chi dice allora lei sta legittimando le tangenti, non ha capito nulla, mi scusi, io sto solo dicendo che se lei si trova a concorrere per un'azienda italiana in un mercato in cui i suoi concorrenti europei abitualmente pagano commissioni di mediazione, chiamiamole così, lei onestamente o vuole perdere tutte le gare e vada a parlare con le imprese italiane grandi che hanno fatto gare in Cina, in India, in Nigeria, in Algeria e quant'altro, oppure accetta anche lei di pagare consulenze per mediazioni come fanno i suoi concorrenti. Il punto qui mi sembra molto diverso, ma non è oggetto degli arresti domiciliari, è capire se in questa presunta maxi tangente o commissione che valeva il 10%, che è una cifra alta comunque anche per il valore che hanno di solito queste commissioni di mediazione, che di solito stanno tra il 3 e il 5%, se tutti i soldi sono serviti, mettiamola così, per vincere la commessa per i 12 elicotteri Augusta Western, oppure se in questa sovrafatturazione vi sia stato anche un girare i soldi a partiti o ad altre persone, cioè è il solito problema. Se tu questa mediazione la paghi perché la fanno anche gli altri e non intaschi un euro, mi dispiace, so che mi attirerò le ire di molti puristi, vestali e ben pensanti, però un gruppo deve anche fatturare, e se in quei mercati si fa così, spiegatemi voi come fa a fare affari, o facciamo vincere tutte le commesse ai francesi che invece allegramente pagano da sempre, non ho nessun problema a dirlo, le commesse di mediazione. Altra cosa è se una sovrafatturazione serve anche a distogliere del denaro per motivi completamente illeciti, vedi le tangenti eventualmente pagati ai partiti. Da questo punto di vista, Raffaella, quali potrebbero essere gli sviluppi? Ma gli sviluppi innanzitutto ci saranno, vabbè, vedremo gli sviluppi procedurali, cioè il riesame che chiederà la difesa di Orsi, adesso ascolteremo anche l'avvocato, e però poi non bisogna dimenticare che se questo fascicolo, se questa parte, quella per la corruzione internazionale e per le false fatturazioni è arrivata adesso all'arresto, resta aperta sempre a Busto Arsizio un'altra inchiesta che contesta proprio il riciclaggio e il filone delle presunte tangenti arrivate a politici anche italiani. L'inchiesta, così come era stata architettata dalla Procura di Napoli, che poi per decisione della Cassazione è arrivata a Busto Arsizio. Il meccanismo in questo filone ricostruito della tangente passa attraverso le false fatturazioni di due società, IDS India e Tunisia, che avevano il compito di realizzare la digitalizzazione tridimensionale degli elicotteri. Un appalto da 28 milioni, e da qui che partono i conti dei magistrati per calcolare le tangenti, non dai 51 di cui parlava Borgogni. Intorno a questo appalto ci sarebbero state appunto queste false fatturazioni che portano poi alle tangenti per l'India, che arrivano ad questo ex capo di Stato Maggiore dell'Indian Air Force, un certo Shashi Tyagi, che è stato in carica fino al 2007, che secondo l'accusa sarebbe stato l'uomo che doveva in qualche modo facilitare Finmeccanica ad avere la commessa in India. Tu hai raggiunto anche l'avvocato però di Orsi. Io amo Dio, sentiamolo. Si tratta di un provvedimento devastante. Comporta la decapitazione di due grandi imprese industriali. C'è una grande amarezza da un lato e una grande sorpresa, perché questa difesa ha offerto alla Procura della Repubblica di Busto tutti gli elementi che potevano servire a chiarire questa vicenda. Non c'è stato mai alcun pagamento illecito. Le autorità indiane hanno riconosciuto che la gara era perfettamente regolare. Ingegner Orsi, questa mattina con lei come ha commentato questa ordinanza? Ha spalancato gli occhi e non credeva possibile che, con tutto il lavoro che ha fatto lui, e lui è andato a presiedere Finmeccanica perché ha retto per tanti anni la gestione di quell'azienda che è il fiore all'occhiello di Finmeccanica, Augusta Westland, tant'è che quello che si mormorava a suo tempo con riguardo ad appoggi avuti da ambienti politici è caduto definitivamente. Dice: guardate, vediamo le carte, io non ho intascato una lira e nessuno mi dice che io abbia intascato una lira o un euro, non ho elargito somme a terzi, ho fatto soltanto quello che era il bene del mio paese e della mia azienda. Così appunto l'avvocato di Orsi Amodio. Devo dire che su questo punto bisognerà essere molto netti, perché a mio avviso l'unica soluzione è quella di mettere in bilancio le consulenze per mediazioni. Poi uno si chiede perché, perché lì bisogna fare consulenze per mediazioni. Il problema è se tutto è in nero, perché lì poi non controlli più dove vanno a finire i soldi. Raffaella Calandra, grazie, e grazie anche per l'intervista all'avvocato di Orsi. Leggo, cioè, vedo che alcune volte è difficile in questo paese, sempre massimalista, ideologico, far passare alcuni concetti. Non ho mai detto che le tangenti siano naturali. C'è chi mi scrive: immagina, ce la puoi fare, non sono tutti corrotti come te, Barisoni. Allora, vabbè, a parte il fatto che sulla mia corruzione faremo una puntata apposita, ma ho detto una cosa diversa. Ho detto: se per vincere una commessa in alcuni paesi è inutile fare le mezze vergini, la verginità non è un problema di centimetri, si diceva una volta. Allora, se tu devi fare quello che fanno i tuoi concorrenti, decidiamo che o non vinciamo più un appalto in certi paesi e quindi i grandi gruppi italiani la smettono di concorrere per le gare lì e lasciamo tutto ai francesi, ai tedeschi e agli americani, che non pensate siano più vergini dei gruppi italiani da questo punto di vista, oppure se c'è da pagare una consulenza perché un ex generale deve mediare e lo fanno gli altri, no? Lo devi fare anche tu se vuoi fare la gara. Altra cosa è dire che la tangente è completamente in nero e scoprire che invece che essere una mediazione per un consulente che ha buoni agganci al Ministero della Difesa piuttosto che al Ministero degli Interni e fa questo di lavoro, si chiama lobby in America. Altra cosa è vedere che questi soldi tu li hai utilizzati per fini interni, per pagare i partiti. Ecco, questa è tutta un'altra vicenda. Chi si ricorda Tangentopoli si ricorda la distinzione tra queste due cose. E vabbè, c'è ancora chi dice: lei vota, ma cosa ne sa di cosa voto io? Ma se non ha capito il ragionamento, diciamo. difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Io dico solo che bisogna sapere di cosa si parla ogni tanto nella vita, lo dico anche a me stesso, e quando parlo di contratti in quei mercati internazionali, diciamo, è inutile avere sempre atteggiamenti ideologici. Ripeto, altra cosa è se viene fuori che sono già tangenti per partiti o associazioni, che è un'ipotesi al vaglio della Procura di Napoli italiana. Quella è tutta un'altra storia, e senza se, senza ma, è un reato, si va dentro e basta. Altra cosa sono le gare internazionali e le commissioni da pagare ai mediatori per fare lobby. Più chiaro di così non ce la faccio. Traffico. ...18 minuti con un certo ritardo, ma insomma sono giornate intense sul fronte della cronaca. Addirittura c'è una persona che mi dice che io ho un linguaggio veramente greve perché ho parlato di demi vierge, di mezze vergini. Va bene, anche questa va bene. Il titolo in borsa ci ha messo moltissimo a fare prezzo, Finmeccanica, perché era sospeso per eccesso di ribasso, perde il 7,31% nel finale, non abbiamo altro da aggiungere. Qui Ansaldo STS meno 3%, Pirelli meno 3%. Vorrei invece un commento da Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Su Pirelli da un lato, e invece dall'altro sulla Popolare di Milano, che anche oggi si porta a casa un 6,70%. Pirelli e Pop Milano. Sì, Pirelli, nonostante Marco Tronchetti Provera, il numero uno della società, abbia detto proprio oggi che i conti 2012 mostrano un miglioramento significativo ed abbia inoltre annunciato che entro l'estate verrà presentato un nuovo piano industriale, ha perso il 3% perché è andata in scia alla concorrente francese Michelin, che ha pubblicato conti 2012 in crescita ma risultati al di sotto delle attese e quindi giudicati deludenti sia dagli analisti sia dal mercato. Michelin ha perso oltre il 3% e appunto la stessa Pirelli è andata giù, poi è già stato debole anche un po' tutto il mercato dell'auto, il sottoindice del comparto ha lasciato sul parterre l'1,1%, ovviamente Pirelli facendo pneumatici è legata a doppio filo a tutto il comparto auto. Mentre per quanto riguarda BPM, esatto, si è messa in evidenza sin dalle prime battute, è stata uno dei migliori titoli, più 6,7%, oggi questa mattina si è riunito il consiglio di gestione, nel pomeriggio quello di sorveglianza, attendiamo un comunicato, di fatto secondo indiscrezioni sappiamo che il tema all'ordine del giorno è la governance, magari oggi sarà un consiglio in cui non si deciderà niente, però di sicuro a breve almeno il mercato scommette che la possa perdere lo statuto di Popolare e quindi essere più scalabile, perché nelle banche popolari ci sono vari meccanismi come una quota massima che uno può possedere, il voto capitario, cioè ogni testa un voto al di là delle azioni, che le rendono difficilmente scalabili. Un ultimo titolo, poi do io gli altri titolo, ed è Rizzoli Corriere della Sera. Come ha reagito la borsa al piano? Sì, ovviamente c'è molto interesse su tutte quelle che sono le società editoriali, anche certo, se ovviamente con le ultime notizie sono state messe in ombra. I titoli comunque hanno lasciato sul parterre oltre il 3%, esattamente il 3,2% dopo l'annuncio di ieri, l'annuncio shock di un ridimensionamento di oltre 800 persone. Ancora i titoli in generale, bene anche la Popolare Emilia Romagna più 2%, Mediolanum più 1,90, Estima Microelectronics più 1,80, Ferragamo più 1,5 come Unicredit e il Banco Popolare, l'1,30 lo guadagna Snam, Azimut guadagna l'1,20, Ubibanca l'1,1 come Enel ed Enel Green Power, chi perde invece oltre a Finmeccanica Pirelli ed Ansaldo, Telecom Italia meno 1,80, Monte dei Paschi meno 1,30, Saipem meno 1,20, Fiat Industrial meno 1%, miglior titolo in assoluto Gemina sulle risparmi non convertibili più 15%, peggior titolo in assoluto Seat pagine gialle meno 13,80%, euro a quota 1,3454, e parliamo di euro perché di nuovo tensioni, braccio di ferro tra Francia e Germania sul valore dell'euro. E Eh sì, perché insomma lo scontro è ancora in corso. Il ministro delle Finanze Pierre Moscovici ha detto se l'euro continua a essere a questi livelli avrà un effetto negativo di uno 0,3% sulla crescita del PIL europeo. Il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca invece, Widmann, ha detto no, l'euro non è sopravvalutato e le discussioni sull'argomento sono un diversivo che distrae dai veri problemi. Sono convinto, i tedeschi sono convinti che una moneta forte sia un modo per costringere le imprese a diventare più competitive. Cos'è? La selezione naturale? Che ripeto, quando in bocca a un tedesco, no? Domanda, perché non lo fanno anche gli americani? Perché anche Obama non dice faremo il dollaro forte per rendere più competitive le nostre imprese? Perché non lo fanno anche i giapponesi che hanno svalutato lo yen? Cioè, sono tutti deboli, non teutonici. Noi dobbiamo essere, capito, selezionare le migliori imprese, quelle che reggono sui mercati anche con l'euro a 1,35, 1,40, 1,50. Vabbè, tra l'altro anche la Svizzera non vuole rafforzare il franco, oltre che l'America rafforzare il dollaro e il Giappone rafforzare lo yen. Mario Draghi ha detto attenzione, verificheremo se il rialzo dell'euro non è eccessivo, non ha impatto sull'inflazione creando troppa poca inflazione. Vorrei sentire l'opinione di chi questi temi li segue tutti i giorni, ossia l'economista Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Allora, mi dica lei, sono io che in questo periodo ce l'ho con la Germania. Io capisco che per un tedesco che era abituato al marco, col sistema di imprese che ha la Germania, grandi imprese spesso delocalizzate, l'euro non sia troppo, troppo forte. Ma secondo lei? Ma io più che l'euro forte vedo deboli gli altri importanti valute che hanno delle politiche monetarie molto espansive e molto imprudenti. Qui dobbiamo riuscire a scindere, a capire invece il collegamento che c'è fra i tassi di cambio e le politiche monetarie. Noi abbiamo avuto complessivamente una politica monetaria meno espansiva, aggressiva, sì, di quella di altri paesi. D'altra parte, se ognuno fa la politica aggressiva ci si neutralizza reciprocamente, esatto, e si causa solo instabilità. Quindi io credo che più che un euro forte noi dobbiamo temere un euro instabile, cioè un euro che diciamo impedisce di fare dei piani di investimento e dei piani di marketing di medio-lungo periodo, perché non si sa cosa varrà la nostra moneta in futuro. Bisogna potersi fidare di un euro relativamente stabile, ma per questo bisogna mettersi d'accordo con gli altri, e quindi ci vuole una cooperazione delle politiche monetarie che il G20 non ha il coraggio di affrontare. Ecco, perché io capisco quello che dice lei, però non possiamo neanche essere noi il vaso di coccio, cioè se il Giappone decide per aumentare le sue export e la sua competitività di abbassare lo yen, la Svizzera vuole tenere il franco a rapporto di 1,20 massimo, l'America continua a pompare valuta, noi restiamo i più virtuosi col cereno in mano, chiedo? No, credo che se ci sappiamo fare con la giusta diplomazia e con la giusta misura delle nostre dichiarazioni possiamo influenzare positivamente anche gli altri e farli ragionare sul fatto che non vale la pena di fare una rincorsa verso il basso delle monete, perché quando scendono tutte dopo non scende nessuno. E si crea anche un sacco di tensione con i paesi emergenti, per esempio il Brasile ha sofferto moltissimo dall'abbassamento del dollaro. L'Asia ce l'ha su col Giappone, tutte queste tensioni non creano, diciamo, condizioni per crescita e sviluppo e concordia su altri fronti, quindi dobbiamo assolutamente mettere intorno a un tavolo le banche centrali e convincerle a darsi una strategia comune che permetta a ognuno di fare un po', diciamo, quello che serve specificamente al paese, però nel complesso non diano l'impressione di rincorrersi a chi la fa più grossa. E secondo lei il braccio di ferro tra Francia e Germania con l'Italia un po' assente, secondo me l'Italia potrebbe appoggiare la Francia visto il nostro modello di impresa e di imprese? Non ho capito che cosa vuole la Francia. Che cosa vuole la Francia? La banca centrale lavora in modo indipendente. Draghi è stato molto chiaro, ha detto quando l'euro preoccuperà dal punto di vista della stabilità nostra, quando ci sarà un effetto depressivo chiaro, cosa che per adesso tra l'altro non c'è, perché il cambio effettivo dell'euro ponderato con l'inflazione, poi le varie monete eccetera, se lo si calcola bene è ancora sulla media storica, non siamo a livelli altissimi. Oltretutto siamo appena usciti da una crisi dell'eurozona, scappavano tutti dall'euro, andavano in Svizzera. Quindi e andavano sul dollaro che veniva tenuto artificialmente alto nonostante l'economia americana fosse in disordine. Sì. Quindi è una fase questa in cui è tornata un po' di fiducia nella stabilità del sistema finanziario europeo e noi riabbiamo un pochino di spazio nei portafogli globali. Non mi sembra che l'euro sia a livelli insopportabili, insomma. Oltretutto, se non sono sopportabili per la Francia, non lo sono neanche per la Germania, che è un'esportatrice su per quello molto sì. Ho capito il suo punto, dice, insomma, c'è anche della campagna politica nelle parole di Moscovici. Grazie al professor Franco Bruno, io termino qui la puntata. Termino qui la puntata. C'è un ascoltatore che scrive ancora sul tema delle mediazioni pagate, che poi diventano tangenti in alcuni casi, secondo me. Ma se uno paga una mediazione di consulenza, succede che vince l'azienda che non ha il prodotto migliore, ma quella che paga di più. Non è esattamente così. Io ho spiegato una cosa diversa, che in certi settori, aerospazio, difesa, energia, grande impiantistica, se la prassi è quella, tu perdi la gara perché non paghi una mediazione a un consulente, la pagano tutti gli altri. Quindi alla fine comunque la gara, paradossalmente, ha anche una sua validità se tutti si appoggiano a un consulente. Altra cosa è fatturare in nero per dare i soldi ai politici o agli amici. Questa è un'altra cosa, per cui questo bisognerà stabilire sugli elicotteri di Finmeccanica in India. Ha ragione Orsi nel dire che questa prassi viene fatta all'estero. Ha ragione. Bisogna capire se poi questi 51 milioni sono serviti a finanziare, come sostengono i PM della Procura di Napoli, la Lega e persone vicine a CL. Questo è il reato, a mio avviso. Non pagare una mediazione a un generale indiano perché metta una buona parola e compri i tuoi elicotteri invece di comprare i Sikorsky americani o i Gazelle francesi. Tutto qua, se vogliamo parlare del mondo reale. Noi torneremo a parlare domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.